GR24, il sole 24 ore. Le elezioni in Sicilia, avanti Crocetta il candidato di PD UDC, ma lo spoglio procede a rilento, oltre la metà dei siciliani non ha votato. Scendono ancora i tassi per rifinanziare il debito, ma lo spread sul BTP risale a 350 punti, borse negative. Il ministro Grilli sull'IMU, nessuna modifica alla scadenza, l'ultima data il 17 dicembre. Le polemiche dopo Catania-Juventus, il presidente del club etneo attacca il guardalinee Maggiani, tifa Juve, l'ho visto su Facebook, ma lui smentisce. Buona giornata dalla redazione di GR24. Siamo attualmente a poco più di 300 sezioni su oltre 5.300. In vantaggio al momento c'è Rosario Crocetta, sostenuto da PD e UDC. L'exploit del Movimento 5 Stelle di questa mattina sembra al momento ridimensionato. Di questo, anche con numeri più precisi, parleremo tra poco all'interno di GR24. Adesso invece diamo un'occhiata al nostro debito. C'è una buona notizia, un'altra invece tra poco negativa. Allora, intanto il Tesoro ha venduto tutti gli 8 miliardi di bot a 6 mesi con tassi ancora in discesa e una domanda sostenuta. Il rendimento medio del titolo semestrale è sceso all'1,34% dall'1,5% del mese scorso. La domanda è stata pari ad una volta e mezzo l'importo offerto. Ma sul mercato secondario lo spread sul BTP decennale torna a crescere. Ora sentiamo il motivo e sentiamo anche come vanno in generale i mercati con Deborah Rosciani in diretta. Sì, buongiorno. Siamo a 349 punti base esattamente adesso per quello che riguarda il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani con scadenza a 10 anni, quindi il BTP e il paritetico tedesco, il Bund. Il motivo è presto spiegato. Non ci sono delle schiarite rilevanti per quello che riguarda la situazione greca e spagnola. Peraltro, poco fa si è appreso che il governo tedesco avrebbe bocciato la proposta di un taglio del debito pubblico greco che sarebbe stata avanzata dalla Troika giovedì scorso durante una riunione preparatoria di esperti per il vertice dei ministri delle finanze dell'Eurozona del 12 novembre. Pertanto i paesi periferici ritornano sotto l'attacco degli speculatori e fra questi c'è l'Italia. Siccome nel breve termine invece la situazione appare più rassicurante a prescindere dalla questione politica, allora il mercato da questo punto di vista italiano viene premiato con un abbattimento dei rendimenti sui titoli appunto a breve scadenza. In tutto questo per la borsa è una giornata piuttosto negativa. Milano perde l'1,83%, tutti i titoli bancari scendono, adesso ammontano al 4% le perdite per la Popolare di Milano e per il Banco Popolare, ma sono nell'ordine del 3% anche i cali degli altri titoli. Nessun titolo positivo, quello che perde meno è Generali, che perde appunto lo 0,08%, oltre un punto di ribasso a Parigi, meno 0,7 Francoforte, meno 0,7 Londra, e l'euro sul dollaro sotto quota 1,29, quindi giornata difficile per l'Europa, ancor più difficile per il mercato americano, visto che Wall Street oggi e probabilmente anche domani è chiusa a causa del passaggio dell'uragano Sandy. Enrico. Grazie a Deborah Rosciani, e noi parliamo proprio dell'uragano. Intanto tutte le compagnie aeree, compresa l'Italia, hanno cancellato i voli per New York e forse verranno cancellati anche i voli per la giornata di domani. La città è paralizzata in attesa dell'uragano. This is a serious and big storm. Il presidente Obama è stato chiaro, tutti devono prendere sul serio, molto sul serio Sandy. L'uragano che nei Caraibi ha ucciso decine di persone e fatto enormi danni si abbatterà su New York quando in Italia saranno le 18. La grande mela si sta preparando. Da ieri sera la metropolitana, che ogni giorno trasporta più di 4 milioni di passeggeri, è chiusa. Fermi gli autobus così come i treni. Chiuse le scuole. Il sindaco di New York, Bloomberg, ha ordinato l'evacuazione di quasi 400.000 persone che vivono nella zona A della città. Il comune ha aperto decine di rifugi. La gente ha fatto scorte nei supermercati dove si sono registrate lunghe code. Gli aeroporti si sono fermati, ma è tutta la costa orientale degli Stati Uniti a tremare. L'allerta riguarda infatti 12 stati, 60 milioni di persone. E la tempesta perfetta, come è stata ribattezzata, potrebbe avere effetti anche sul voto presidenziale. Per il momento i due candidati sono stati costretti ad interrompere la campagna elettorale. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso parliamo delle elezioni in Sicilia. Alle 13:05 minuti, elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale per scegliere il presidente. Facciamo il punto della situazione con Maria Luisa Pezzali in diretta. Buongiorno Enrico, buongiorno agli ascoltatori. Abbiamo superato il 10% delle sezioni scrutinate, siamo a 716 su 5.308, è in testa il candidato di PD e UDC Rosario Crocetta con il 31% delle preferenze, seguito dal candidato di PDL e la destra Nello Musumeci con il 26%. L'esponente del Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri ottiene attualmente il 16,6%, superando di poco questo fra il terzo e il quarto candidato. È un vero e proprio testa a testa, superando di poco, dicevo, Gianfranco Miccichè di Grande Sud, appoggiato anche da FLI e MPA, che attualmente ha il 15,8%. L'elezione, lo ricordiamo, è a turno unico, senza ballottaggio. Sarà eletto presidente della regione chi otterrà il maggior numero di preferenze. Grande incertezza, grande prudenza dunque. Quello che invece è certo è il dato sull'astensionismo record. Alle urne si è recato infatti meno di un siciliano su due, il 47% contro il 66% del 2008, una flessione dunque di quasi 20 punti percentuali. Altro dato forte di queste elezioni è l'exploit del candidato del Movimento 5 Stelle, Giancarlo Cancelleri. Nelle sue prime dichiarazioni alla stampa ha parlato di numeri spaventosi, sentiamolo. Stanno però arrivando i primi dati alle sezioni da ben rappresentanti di lista. E i numeri sono spaventosi. Mi dispiace soltanto per il dato dell'astensione, che è molto alto, il 52% dei siciliani non è andato a votare. Questa è un po' una cosa che credo che chiunque diventa governatore poi dovrà attenzionare, perché fa capire che non c'è stata, diciamo, grossa partecipazione. Per gli aggiornamenti, lo spoglio, lo ricordiamo, è iniziato questa mattina alle 8 e tuttora in corso. Ci risentiamo tra poco a Italia in controluce alle 13:30. Enrico. Grazie a Maria Luisa Pezzali. E come abbiamo detto più volte nel corso della mattinata, uno dei dati più importanti è quello dell'astensionismo. Su questa mattina Alessandro Milan ha sentito il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando. Una regione come la Sicilia, che è abituato ad avere alte affluenze al voto, si assiste e si registra la morte dei partiti politici. Il dato è vero che i partiti politici tradizionali non riescono più ad essere punto di riferimento per le esigenze dei cittadini. La incapacità dei partiti di essere un punto di riferimento delle esigenze dei cittadini. Voglio ricordare un dato che sicuramente è forte: 60 punti percentuali ottenuti da me a Palermo, che è in Sicilia, rispetto ai partiti che mi sostenevano, manda un messaggio terribile che riguarda la fine dei partiti, quelli della Prima Repubblica, che sono finiti nel 92, e quelli della Prima Seconda Repubblica, che sono finiti nel novembre 2011 con l'uscita di scena di Silvio Berlusconi. Io credo che questo risultato siciliano, collegato a quello palermitano di qualche mese fa, manda un messaggio alla politica nazionale che è un messaggio chiarissimo. I partiti sono diventate strutture autoreferenziali, incapaci di esprimere le esigenze dei cittadini. Il punto di Stefano Folli. Oggi il punto di Stefano Folli va naturalmente in diretta, visto che i dati stanno arrivando gradualmente dalla Sicilia. Buongiorno Stefano. Buongiorno a voi. Allora, quali segnali cogliere? Perché sicuramente alcuni segnali importanti si possono già cogliere a questo punto della giornata. Ma sull'astensionismo è stato detto nei servizi e mi sembra che ci sia poco da aggiungere, è un dato clamoroso e impressionante. E sulla questione del voto di lista, a me sembra che abbiamo in questo momento, quando manca molto alla fine dello spoglio, Grillo, il quale si trova praticamente in un fazzoletto di voti insieme ai due maggiori raggruppamenti, centro-sinistra e centrodestra. Questo suona sconfessione totale di questi raggruppamenti, suona sostanzialmente fallimento delle varie proposte di governo per l'isola, e sarà molto difficile affrontare poi il problema di dare una giunta efficiente a Palazzo dei Normanni, perché di fatto c'è stata una delegittimazione e col voto di astensione e con questo 13,60 che in questo momento è il voto di Grillo. Poi naturalmente c'è un effetto di trascinamento, per cui Crocetta per un verso e Musumeci al secondo posto hanno molto più dei voti di lista, hanno più dei voti di lista dei loro partiti di riferimento, mentre il cancelliere, il candidato che è di basso profilo, di Beppe Grillo, praticamente prende poco più dei voti di lista della lista dei 5 Stelle. Quindi lì è un voto che viene dato a Grillo, al suo messaggio di contestazione al sistema. Questo è destabilizzante per tutto il sistema politico e in particolare per l'area che è, diciamo, di protesta o comunque di contestazione, e porrà il problema in termini molto più radicali quando tra pochi mesi si andrà a votare per il Parlamento nazionale. Questo è un messaggio estremo che viene mandato ai partiti romani perché attuino, ma non so come sarà possibile in questi pochi mesi, un reale rinnovamento per presentarsi di fronte ai cittadini in una forma rilegittimata, però mi sembra che sia molto tardi. Molto difficile. Bene, grazie a Stefano Folli per il punto che vi ricordo va in onda nei nostri giornali radio alle 8 e alle 13. Parliamo del Presidente del Consiglio Mario Monti, che è arrivato a Madrid questa mattina, dove è stato ricevuto dal Premier spagnolo Mariano Rajoy in occasione del vertice italo-spagnolo. Monti non è da solo perché è accompagnato, pensate, da ben 4 ministri: Moavero, Terzi, Passera e Cancellieri. La IMU, tutti ormai la conosciamo, oggi sono arrivate alcune precisazioni dopo le polemiche della giornata di ieri, l'allarme del giorno di ieri, precisazioni che sono arrivate dal ministro dell'Economia Grilli. Nessun rinvio, la scadenza per il pagamento dell'IMU resta confermata al 17 dicembre. Dopo l'allarme lanciato dai CAF sul rischio caos per la terza e ultima rata, visto che mancherebbe l'88% delle delibere comunali, è il ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, a mettere un punto fermo. Non è possibile spostare la data, spiega Grilli, altrimenti si metterebbero a rischio gli obiettivi di deficit. Parla il ministro all'inaugurazione dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate dell'Aquila, occasione per rassicurare chi ha avuto danni dal terremoto potrà continuare a ricevere sgravi fiscali. Io che ministro Barca abbiamo ribadito come ci sia stato forse un brutto malinteso, abbiamo riavviato il dialogo con Bruxelles, quindi da questo punto di vista i cittadini non si devono preoccupare, tutto rimane come giustamente loro ritenessero fosse il caso. Intanto settimana decisiva questa per la legge di stabilità, un cammino che dopo gli attacchi di Berlusconi appare molto più accidentato. Mercoledì scade il termine per presentare gli emendamenti. Grilli incontrerà i due relatori, Brunetta del PDL e Baretta del PD, per tentare un'intesa sulle modifiche. Il PDL è contrario all'aumento dell'IVA e alla retroattività di deduzioni e detrazioni. Il PD dice no ai tagli alla scuola e punta ad un nuovo abbattimento del cuneo fiscale. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Una notizia di poco fa: i membri dell'ufficio di presidenza della Regione Lazio, tra i quali Mario Abruzzese, presidente, e Isabella Rauti, consigliere, sono indagati a Roma per concorso in abuso d'ufficio. Il filone d'inchiesta nell'ambito del fascicolo sui fondi regionali riguarda la proroga dell'incarico al segretario generale del Consiglio. Adesso parliamo del maltempo. Un fulmine ha provocato a Santa Maria Capua Vetere il crollo di un campanile. Le piogge e anche la neve che ieri sono cadute al nord si sono spostate al sud. Oggi invece in buona parte del nord, ad esempio a Milano, splende un bel sole. Il maltempo che ha interessato ieri il nord Italia concederà una tregua fino a domani, mentre le precipitazioni si sono spostate al centro-sud. A Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, un fulmine ha fatto crollare il campanile della chiesa di Santa Maria delle Grazie. La protezione civile segnala possibili nevicate a 1000 metri nelle Marche e in Abruzzo, neve che ha già imbiancato il massiccio del Matese tra Campania e Molise. Un peggioramento complessivo si avrà a cavallo tra ottobre e novembre. Un'intensa perturbazione proveniente dal nord Atlantico, con piogge che potranno essere di nuovo molto forti, interesseranno tutto il paese. Allerta anche in Calabria, piogge e temperature in calo nell'area del Pollino colpita dal sisma, dove 500 persone dormono in auto. L'ondata di freddo e maltempo sferza anche l'Europa, Polonia e Francia le più colpite. Nella regione di Varsavia nevicato, 70.000 polacchi sono rimasti senza elettricità e nel sud del paese le rigide temperature hanno assiderato 3 persone. In Francia, nella regione delle Alpi, 50.000 famiglie sono sono rimaste senza luce. A Parigi la temperatura ha toccato lo zero. Giuseppe Borello, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Veniamo all'omicidio di Sara Scazzi. Michele Misseri arriva oggi davanti ai giudici. Sentiamo il servizio. Al Tribunale di Taranto, Michele Misseri è chiamato oggi a dire la verità, l'ennesima sua verità. Libero dal 30 maggio 2011, oggi Misseri dovrà parlare e dire cos'è successo quel 26 agosto 2010 nel suo garage ad Avetrana, in provincia di Taranto. Dovrà dire chi ha strangolato Sara Scazzi, 15 anni, ritrovata in un pozzo in contrada Mosca nelle campagne. In questi due anni, dal 6 ottobre 2010, tra confessioni e retrofront, sono almeno 7 le versioni dell'omicidio rilasciate dall'agricoltore. Inizialmente autoaccusatosi di tutto, Michele arriva ad incolpare la figlia Sabrina, che viene arrestata. Il delitto sarebbe avvenuto in casa con l'aiuto della mamma Cosima Serrano, anche lei in carcere. Per la procura, Michele Misseri è colpevole solo della soppressione del cadavere della nipote. Oggi zio Michele sarà sotto l'esame dei giudici, ai quali potrebbe però anche non rispondere. In aula ci sono anche Sabrina e la madre Cosima, che saranno sentite domani. Non è presente Concetta Serrano, madre di Sara. Luisa Perona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Vedo solo un'ultima ora che arriva da Campobasso. Le elezioni regionali 2011 nel Molise sono state annullate, quindi si tornerà alle urne. È stata depositata poco fa a Palazzo Spada la sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato sui ricorsi elettorali. I giudici hanno respinto le istanze del centrodestra, confermando il verdetto del TAR Molise, che nella scorsa primavera aveva appunto annullato il voto. Notizia di pochi secondi fa. E adesso, come dicevo, le polemiche che sono state inevitabili dopo Catania-Juventus. Buongiorno a Dario Ricci. Ciao Dario. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, Sicilia al centro del dibattito non solo politico ma anche calcistico, Enrico, visto gli errori ieri dell'arbitro Gervasoni e soprattutto del guardalinee Luca Maggiani, lo ricordiamo, che ha annullato il regolarissimo gol catanese di Bergessio per fuorigioco inesistente e poi convalidato il gol di Vidal, il gol decisivo che ha regalato l'1-0 alla Juventus, viziato però dal fuorigioco del danese Bentner, l'attaccante bianco-nero. Ebbene, come poteva mancare da questa ennesima polemica arbitrale, anche Facebook ci è entrato oggi con le parole del presidente del Catania, Antonino Pulvirenti, che ha denunciato: c'è lo scudetto della Juventus sul profilo Facebook di Maggiani, del guardalinee Maggiani. Tutti possono tifare per la squadra che vogliono, ma dopo quello che è successo ieri e di come si sia fatto influenzare, ditemi voi cosa dobbiamo pensare. Questa è la denuncia di Pulvirenti, a cui però sono seguite prima delle precisazioni tecniche. Non si tratta direttamente della pagina Facebook del guardalinee, ma di una pagina fan Luca Maggiani, non direttamente riconducibile all'assistente di Catania Juventus. È poi arrivata anche la smentita ufficiale dell'Asso Arbitri, attraverso la quale Maggiani ha chiarito di non avere nessun profilo sul social network, e la stessa Asso Arbitri ha auspicato l'avvio di un'inchiesta sull'argomento da parte della Procura federale. E poi infine solo per adesso, perché la polemica andrà avanti per giorni, la provocazione di Pulvirenti, che ha chiesto una punizione per i giocatori della Juventus e che sia lo stesso presidente bianconero Agnelli a chiedere lo 0-3 contro la Juventus dopo i fatti di ieri. Ne riparliamo ovviamente alle 14 con Carlo Genta in Tutti i Convocati. Grazie a Dario Ricci. Naturalmente ci sarà spazio per molte polemiche per molti giorni. Adesso parliamo di ambiente, ma c'è poco da stare allegri. Dal rapporto Lega Ambiente sulle aree urbane fa capolino anche la crisi economica. A volte è un utile capro espiatorio, non di meno morde. La crisi economica, in particolare i tagli ai trasferimenti ai comuni, si fanno sentire anche per le politiche ambientali portate avanti dai centri urbani. È quello che trapela dalla 19ª edizione del rapporto ecosistema urbano di Lega Ambiente. In testa alle virtuose ci sono Venezia, Bologna e Genova per i grandi centri, Trento, Bolzano e La Spezia per i medi, Verbania, Belluno, Pordenone per i piccoli. Alberto Fiorillo, responsabile aree urbane. La città che è arrivata prima di tutte, Venezia, va sottolineato che c'è naturalmente un vantaggio fisico nella sua performance, dovuto al fatto che per ovvi motivi, a differenza degli altri centri urbani, può dimenticarsi tranquillamente il traffico e la congestione sulle arterie. Sul podio nessuna rappresentanza delle città del sud. La prima del meridione è Bari, che si colloca però all'11° posto. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci sono alcune notizie dell'ultima ora. Allora, la prima arriva da Roma e riguarda l'omicidio di un immigrato sudanese. È stato individuato ed arrestato all'Aquila dalla squadra mobile di Roma l'autore dell'omicidio del giovane sudanese ucciso ieri pomeriggio a Roma in un parco. Secondo quanto si è appreso, l'autore dell'omicidio potrebbe essere il datore di lavoro dell'immigrato colpito al torace da un colpo di pistola al termine di una lite. Un'altra notizia di poco fa: restano agli arresti domiciliari Emilio Riva, il figlio Nicola e l'ex direttore dello stabilimento Ilva di Taranto, Capogrosso, accusati di disastro ambientale. Il Tribunale del Riesame ha rigettato i ricorsi presentati contro il secondo no del GIP alla richiesta di rimessione in libertà da parte della difesa, quindi i Riva rimangono agli arresti domiciliari. Due notizie che arrivano dal Medio Oriente: un'autobomba esplosa oggi vicino ad un ristorante in un sobborgo di Damasco, provocando una decina di morti. Oggi l'inviato dell'ONU e della Lega Araba per la Siria, in visita a Roma, Lakhdar Brahimi, ha detto che la crisi siriana è estremamente pericolosa, la situazione è difficile, sta peggiorando e siamo alla guerra civile. Ma per il momento dalla comunità internazionale non arriva nessun segnale. Ultima notizia: sono 18 razzi lanciati questa mattina dalla striscia di Gaza verso il sud di Israele. Fortunatamente non ci sono stati feriti. L'attacco è stato rivendicato da Hamas. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Enrico Pagliarini. Grazie a Paolo Corleone, che si è occupato della parte tecnica. Il giornale radio torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buona giornata da Adriana Fracchi e ben ritrovati per una nuova edizione di GR Spettacoli. Apriamo con il cinema. La commedia di Massimiliano Bruno, Viva l'Italia, si impone al botteghino dal giorno dell'uscita giovedì scorso con un incasso di 1.460.000 euro, seconda un'altra new entry, Le Belve di Oliver Stone. Scende invece dal primo al terzo posto Ted, mentre il film d'animazione Gladiatori di Roma è quarto. Settima e ottava, altre due novità, Io e te di Bernardo Bertolucci e Alla ricerca di Nemo 3D. È stata presentata a Milano la prossima edizione del Courmayeur Noir in Festival, che si aprirà nel segno di Alfred Hitchcock. Si tratta della 22esima edizione, in programma dal 10 al 16 dicembre. Marina Fabrico, direttrice della rassegna, insieme a Giorgio Gosetti, al microfono di Marta Cagnola. Letteratura per sentire le ultime novità dei libri, un premio letterario, il premio Scerbanenko per il miglior noir italiano, un premio alla carriera, un grande come lo scrittore americano Don Winslow. Poi abbiamo i film, ovviamente i film importanti come l'anteprima assoluta di Hitchcock, il film che vede Anthony Hopkins come protagonista. Poi anche molti film italiani. Quest'anno abbiamo ben 3 film italiani, perché crediamo che insomma il genere abbia un futuro anche nella cinematografia nostrana. Ci sono molti buoni talenti, soprattutto talenti di scrittura di cinema. Dopo il successo dello scorso 17 ottobre con 48.000 spettatori e un incasso di 560.000 euro, il film concerto Le Zeppelin Celebration Day ritorna solo per questa sera in più di 40 cinema italiani. A darne la notizia il distributore Nexo Digital, che sul proprio sito comunica l'elenco completo delle sale che proietteranno nuovamente il concerto reunion del 2007 della band hard rock britannica. Domani Claudio Abbado torna a dirigere la Filarmonica della Scala, che lui stesso ha fondato, dopo 26 anni di assenza. Ieri in solita anticipazione, con una prova aperta in cui il pubblico, formato dai cori giovanili del sistema Breu Italia, ha potuto ascoltare la Filarmonica e l'orchestra Mozart, dirette da Abbado, che eseguivano la Sinfonia numero 6 di Mahler e il Concerto numero 1 in Mi minore di Chopin, con Daniel Barenboim al pianoforte. Proprio ieri il maestro Abbado è stato colpito da un grave lutto familiare. È morta la sorella Luciana, storica organizzatrice e fondatrice dell'Associazione per la Musica Contemporanea Milano Musica. Cambio di conduzione da domenica prossima su Canale 5. Ieri al termine della quarta puntata di Domenica Live è stato lo stesso Alessio Vinci, in diretta con Sabrina Scampini, ad annunciare che lasciava il programma e passava il testimone a Barbara D'Urso. È andata in scena ad Atene la prima assoluta dell'opera teatrale Odissei, basata sul lavoro di Omero per la regia di Robert Wilson. Si tratta di una coproduzione di Teatro Nazionale di Atene e Piccolo Teatro di Milano. Il direttore del Piccolo, Sergio Escobar. Collaborazione importante, sfidiamo non l'incoscienza, ma la necessità, ma non per chiuderci nel mito dell'Europa che è nata con Ulisse, con la Grecia, ma per domandarci insieme cosa sta cambiando nel mondo, perché la risposta alla crescita non è per un PIL che non sia esclusivamente determinato dalle società che determinano, come si dice, le certificazioni, nasce da interrogarsi sul cambiamento. Chi non fa questo è davvero matto. È tutto per questa edizione di GR Spettacoli, un saluto da Adriana Fracchia.